capire la semplicità in questa vita caotica, fatta di uomini che scappano, uomini si fermano e robot meccanici da ferrea. Dal tempo scandita vorrei cogliere il semplice della vita, vorrei sorvolare ricatti e sfide, ma infatti in modo devastante io sto fermo e sto urlando ai robot di scappare. Non voglio limiti spinosi, non voglio fossati, non voglio un CPU che mi dica che fare, io viaggio e colgo i frutti più gustosi e li tengo ai porci, mi mangio le gramigne più cattive, sono pure, sono vere, voglio semplice, cercherò di capire la bellezza della vita e sto capendo che la bellezza è semplice, la vita vera semplice non è, quindi la vita bella non è, non è. Io viaggio e colgo i frutti più gustosi e li getto ai porci, mi mangio le gramigne più cattive, sono pure sono vere, voglio, voglio il semplice e sto capendo che la vita semplice non è, ma la bellezza è semplice. Sto capendo che la bellezza è semplice, semplice, semplice.